sfondo dove non trovo persona che conosco. Se qua vedo qualcuno io mi discosto, perché il mio pensiero non è come il vostro e spesso mi fermo. Penso alla mia vita cercando ogni giorno una via d'uscita che mi tolga di dosso un po' della fatica che dalle mie nascite è stata stabilita. Adesso mi incanto, guardo il soffitto, non c'è rumore, intorno tutto è zitto. Nella mia stanza non c'è sole, ma la lampada mi dà il giusto colore. Ora rifletto sulla mia posizione, le mie certezze senza valore sono sempre messe in discussione, ma dentro di me il problema non si pone. Non amo parlare di ste cose da niente, mi sembrano verbi buttati al vento, perché non mi sono importati realmente. Mi cazzo 99 volte su 100. Basta niente, mi sembrano verbi buttati al vento. Realmente mi cazzo 99 volte su 100. C'è una strada giusta da seguire, per la quale è giusto anche morire. Se tutto questo fosse solo soggettivo, opterei per sentirmi vivo. Vedere presenti dove stavo soffiato, facendo ciò che sempre ho sognato, ammazzando chi ti sta sul cazzo, correndo in giro facendo il pazzo. Poi dalla via vedo una grande luce, posso solo immaginare dove conduci. Penso che quella sia la finalità, ciò che cerchiamo è la felicità. In ogni azione che ci porterà a raggiungere la nostra meta, fondamentale che tu lo vuoi, prendi esempio da chi vuoi, se vuoi da noi. Non amo parlare di ste cose da niente, mi sembrano verbi buttati al vento, perché non mi sono mai portati realmente. Mi cazzo 99 volte su 100. Cosa da niente, mi sembrano verbi buttati al vento. Realmente mi cazzo 99 volte su 100.